questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. L'ora del tè delle 5, quasi l'ora dell'aperitivo, quell'ora del sabato in cui mi viene un po' voglia di RadioTube. Daniele, hai visto come siamo belli sulla pagina bellissima del nuovo sito di Radio 24? Ma tu sei bello, io mica tanto. Ma no, perché? Non mi piacciono, anzi, neanche un po'. No, non lo so, sembra che c'ho il doppiamento, non ce l'ho il doppiamento. Vabbè, perché io sono di profilo, per cui c'è il naso che arriva. Che cos'è, tipo l'ombra? Però no, è bello, no, ma è bello, molto bello il sito, tutto bianco, dobbiamo mettere i titoli più giusti. Comunque, noi siamo l'imperdibile, perché poi compare nella pagina. Se voi andate lì per fare il podcast, compare sempre questa frase stupenda, che noi in RadioTube è il nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo eppure il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. Cioè, sono due minuti che siamo in onda già. Sì, tu sei tre ore che sei in onda, due sì, ore. Sì, ma insomma, una puntata, sai che abbiamo parlato anche di ciclismo, che ti piace tanto. Che bello, abbiamo parlato che di bello, tante cose. Hashtag. Hashtag account, Marta Canta, hai visto che un po' aveva preso qualcuno, Marta Canta? Sì, dai, ti prometto, prima o poi prima canterò poi. Marta Canta. Ma invece in questa Marta puntata Cagnola, chiocciola di Bellasio, scusa, hashtag RadioTube, sì. In questa puntata, dai, parliamo calcio. Un po' di calcio. Sì, tanto calcio, tanta arte e in fondo molto gossip. Ma molto di in fondo, gossip, diciamo. Un po' di gossip ci vuole, in fondo. Un po' di gossip che ci rallegra su Marta, le giornate. Saprete tutto su Marta. Guarda, veramente, cantando. Quanto dura il terzo blocco? Poco, 11 minuti. Poco. C'è traffico, c'è traffico. Guarda, diciamo. 11, gossip su di me, 11 secondi. Vabbè, guarda. Dai, partiamo subito con il calcio, ma anche ormai con la letteratura. Ma con l'epica. Con l'epica, esagerato. L'epica di? Dell'uomo più affascinante. No, affascinante. Da un po' di puntate Matteo che Renzi, non te lo faccio dici? Sentire. Matteo Renzi. Parleremo anche di lui. No, no, non si chiama Matteo, si chiama Viperetta. Viperetta. Viperetta, quello vero. Quello, ma sai che ormai è indistinguibile quello vero dall'imitazione? Infatti ho deciso di farti sentire, sì, secondo me, l'exploit più divertente di questo periodo, anche se è passato qualche giorno, non è esattamente dell'ultima settimana, sì, è quello, è l'imitazione che ne ha fatto Maurizio Crozza questa settimana. Allora, a confronto, scegliete voi qual è quello vero. Identici. Allora, Massimo Ferrero, dopo la... Presidente della Sampdoria. Sì, sì, dopo Sampdoria-Inter. Sì. È stato intervistato in inglese. Ah, tu l'hai sentita, Daniele? Ma era una giornata particolare. Sì, di non, molto. Non ti sei concentrato su Sampdoria-Inter? No, non mi sono concentrato. Ormai non mi concentro più sul calcio, quindi... Vabbè, amalo. Ha parlato in inglese, col sì, suo inglese. Col suo inglese. Che è tipo quello di... Perfetto. Perfetto. Sì. Perché allora, nel cinema si usa. È straordinario. Lui ha dimostrato di saper parlare un inglese perfetto e se non vi fidate ve lo mostriamo alla radio. Sentiamo. Eccolo qua. A bit the surprise of this league with Sampdoria as well. Now, there is a limit of dreaming. It is really possible, Champions League, or whatever will happen. Anyway, it's fine. Nice to meet you. Enjoy a football. Enjoy. Okay, but what bye, is... darling. But what is your style? I love you, darling. Me? I love you. Al people. Al people the football. Okay. Okay? If Mihailovic goes, do you have already an idea for the alternative? You understand. You understand. I love you, man. No, perché lui è dadaista. Ma vedi che è perfetto. Perfetto. Enjoy. Enjoy e gioia. Beh, enjoy. I love poi, you, my darling. Darling. Sapeva tutte le cose che ci siamo capiti. Ci siamo capiti. E poi you understand. Si è capito tutto. Ha risposto, perfetto, aveva il servizio, il collega della, ha della radio. Ha portato a casa la voce. Assolutamente. Poi ci fa un servizio e bastava la faccia. E questo è invece successo Crozza, dopo Sampdoria, no, Inter. Crozza l'ha imitato. Perché questo non era Crozza, no, no, diciamo. Questo era Ferrero. Questo era Ferrero, vero. Però se senti Crozza... è più serio. È uguale. No. Vuoi sentire con l'imitazione di Crozza? In inglese l'ha fatta? Eh beh, parliamo in inglese. Maurizio Crozza in Viperetta in inglese. Buonasera. Presidente Ferrero, buonasera. Presidente, siamo qua. Buonasera, Presidente Ferrero. Buonasera. Sì, sta salutando in inglese, credo. Evening to everybody. E good evening, forse voleva dire. Parliamo inglese, dai. Va bene, proviamoci. L'italiano è una lingua morta, se lo ricorda l'italiano? Sì, certo, io lo so. Che io possi, che sì, tu possi, che te possi. No. Che te possino, bravo. No, no, che te possino. Non... Leggi il futuro, te. No, no, no, io volevo... Che sei una zingara? No, non sono una zingara, volevo... Si ricorda la canzone? Sì. Prendi questo in mano, non zingara. Era così, non era così, non era così. Vabbè, perfetto, è uguale, sì, identico. Sì, un po' più composto, però Ferrero ha portato nel calcio cosa? No, tante, guarda, cose, diciamo, il cinema, direi, nella, il cinema, il suo account, sì, una vita, sì, assolutamente, cinema. Assolutamente. Poi questa settimana un altro personaggio di cinema si è arrabbiato, un altro presidente, un altro presidente De Laurentiis, anche lui fa cinema, si è arrabbiato in un modo diverso, ma Ferrero invece non si arrabbia tanto. No, Ferrero non si arrabbia. De Laurentiis ha minacciato di mettere sotto chiave i giocatori, di non farli più uscire, sì, mai, perché si da arrabbia, ritiro. Sì, è una roba. Invece sai cosa ha fatto Mancini? Cosa ha fatto? Ah, l'ho trovato bellissimo, sempre un bell'uomo, sempre un dunque lui praticamente si è arrabbiato dopo che abbiamo pareggiato col Parma, ha detto domani mattina alle 8 tu te li vedi i calciatori, c'era una sfilata di Lamborghini di, sì, scusate, non si può dire una marca, non lo so, vabbè, di marca di lusso, che arrivavano alle 8 del mattino, immaginati, il giorno di Pasquetta, ma una roba bellissima, Pasquetta col cu, Ah, Pasquetta, buona Pasquetta, sì, auguri. Ma lì era ironico, l'ha, no, fatto. Secondo me, ma... secondo me aveva un T9 sbagliato. Ecco, il senatore. Maledetto, ma come si chiama quella roba lì? Maledetto suggeritore, sì, mi sbaglia. Il T9 non c'è più. Secondo me il correttore aveva il correttore automatico di non di so razzese, che lingua, il razzese, il razzese, e gli ha scritto con la ma invece perdonabile. Vabbè, succede, era un po' come gli autobus della Sant'Anché, era il correttore automatico. Quello non me lo ricordo più, com'era? I piloti dell'autobus della Sant'Anché, ah, di cui avevamo parlato, succede, succede. Vabbè, io però proseguirei con il calcio perché ci sono molte notizie questa subito. Settimana. No, guarda, tra un pochino, perché direi che è il momento di aggiornarci su quello che sta succedendo su strade e autostrade per il famoso traffico del villaggio. Yes. Poi parlare ancora di calcio. In realtà mi devi dare una mano perché io ho capito e non ho capito quello che è successo. Vabbè, calcio e cronaca, non ho purtroppo. Capito, eh. Sì. Ah, sì, calcio, certo. E cronaca. Però ci sono delle cose divertenti, più o meno interessanti, anche un po' che fanno arrabbiare, che sono successe questa settimana, e ne parleremo tra poco con un ospite. Sì, con un ospite che lui è cuore Granata, sai? Ah, perché il Toro quest'anno è una squadra rivelazione, che tutta allora... grinta, avventura, le cose, va di moda. Allora, tra poco lo chiediamo al nostro ospite, adesso è il momento del traffico. YouTube. E dopo il Eccoci traffico qua. Un po', sì, di calcio del villaggio, sì, un po', l'abbiamo detto, era da un po' che non parlavamo di calcio, era da un po' che non sì, poi volevi fare questo esperimento di mischiare il calcio, l'arte, perché dopo parliamo d'arte, però ma c'è, prima anche, di c'è anche un link c'è tra un le due link, cose, tu lo saprai trovare, ma con chi parliamo di calcio? Allora, non i soliti tifosi, Juve, Inter, Milan, quelle squadre lì minori. Cioè, beh, insomma, questa le è una vere squadra, squadre rivelazione. Questa è una squadra con una certa tradizione, possiamo, sì, dire. L'hai anticipato, un tifoso, cioè, in realtà Granata, fa anche il giornalista, fa anche non il è giornalista, che lo, giornalista, caporedattore, chiocciola il foglio underscore IT, co-founder, chiocciola Good Morning IT. Buonasera a Piero Vietti. Buonasera, Piero. Buonasera. Anzi, per dirla tutta, buonasera, chiocciola Piero Vietti. Chiocciola che abbiamo dato tutta la bio di Twitter. Che no, è perché questa. Piero, tra l'altro, cura anche una pagina del Foglio il martedì, giusto? Sì, esattamente. Che è una sorta di provocazione tabloid sul mondo del calcio. Piace molto agli juventini, mi dicono. Ma sì, poi non so bene perché in realtà sono gli interisti che dovrebbero essere più arrabbiati, perché normalmente vengono molto mazzulati. Ma noi siamo loro. Ospitali, lo sai, noi siamo gente per bene, educata. No, io assisto sempre con grande curiosità, nel senso che io sono una blanda tifosa. Allora, una delle ragioni per cui io tifo Roma, sì, era perché la mia migliore amica delle scuole elementari era romanista. Sì, quanti fidanzati? Alcuni. La mia famiglia è metà interista e metà milanista, sì, e io non volevo prendere parte. Mi sembrava giusto. Ma soprattutto perché la Roma è sempre stata la squadra con le canzoni più belle, lo dobbiamo dire. Antonello, dobbiamo dire. Sì. Con la Roma ha sempre avuto le canzoni più belle. Ma il nostro Piero Vietti mi segnalava una performance musicale non da poco. Beh, girava su Facebook qualche giorno fa un video molto, molto bello di una bambina che è allo stadio all'inizio di Torino-Zenit-San Pietroburgo, la partita di ritorno dell'Europa League di qualche settimana fa, canta a squarciagola l'inno del Toro con, credo, il padre che si prende con lo smartphone. Ah, quindi il padre non sei tu però? No, non sono. Non è parente? Non è parente. Non è parente, no. Allora, il video ce l'abbiamo. La bambina, ve lo dico alla radio, è interamente bardata con le sciarpe del Toro, ma il cappellino rosa è tanto carina. Non proprio. Alla radio si può mostrare, peraltro. Sì, non è proprio intonatissima, ma sicuramente perché c'è molto rumore allo stadio e lei non sente molto bene. Ecco la bimba che canta l'inno del Torino. Cioè, lei urla come una pazza, ovviamente, perché non sente, perché sì, è il rumore della curva. Però è avvelenatissimo. Ma è un inno molto amato? Tu lo sai, Piero? È un inno, sì, beh, come no. Come no? Lo so benissimo. È un inno che venne fatto alla fine degli anni Ottanta. Mm-hmm. E quando il Toro lo cantavano addirittura dei giocatori del Torino, tra cui Cravero, ricordo benissimo, ed è l'inno che il Toro si è un po' portato dietro in questi anni qui. Nel frattempo ne ha cambiati altri, ma questo è quello che ha portato meglio finora, e quindi si continua a cantare quello. Ma a proposito di portare meglio, ma non è che sta diventando un po' troppo di moda questo Toro? Non è che, non so, vi montate la testa? Ma adesso, di moda non lo so, certo è che, parlando proprio di social, una delle cose più impressionanti è stata vedere quando il Torino è stato eliminato dall'Europa League, vincendo 1-0, ma il risultato non bastava, e il fiume in piena di tweet, status su Facebook di tifosi delle altre squadre che si dicevano dispiaciuti, persino molti juventini dispiaciuti, perché il Torino, secondo loro, era l'unica squadra italiana che meritava di andare avanti, per il cuore, per quello che dimostrava, per la bella storia che stava facendo vedere a tutto il calcio. Non lo so se siamo di moda, diciamo che dopo 20 anni di anonimato far parlare bene di sé non è male, dai. Comunque l'inno del Toro era stato scritto da Valerio Liboni, bravo, bravissimo cantautore, bene. Liboni, bravissimo, certo. Bravissimo. Sa tutto. Beh, no, lo stavo cercando, ho googolato. Non è che sapevo anche dell'inno del Toro. Allora, bello vedere le curve. Questo felici. È un tipo, una tifosa bella. Ecco, bello vedere le curve felici, bello vedere i bambini allo stadio. Meno bello vedere altre curve, e purtroppo parliamo della Roma. La scorsa settimana gli ultras della Roma hanno esposto uno striscione molto discutibile, diciamo così, per non dire di molto peggio, che si riferiva alla madre di Ciro Esposito, il tifoso che era stato ucciso, il tifoso del Napoli che era stato ucciso dopo una serie di violenze, in una brutta serata, con tante cose ancora da chiarire. Sì. James Pallotta, patron, il presidente americano della Roma, sì, ha commentato questo episodio in modo molto chiaro al telefono con la radio della Roma, senza usare mezzi termini. Questo audio è stato diffuso un po' dappertutto questa settimana perché le espressioni sono molto molto molto chiare. Non è giusto che tutti i nostri tifosi vengano puniti per colpa di pochi fottuti idioti e stronzi che stanno in curva sud. E sono sicuro che la stragrande maggioranza dei sostenitori della Roma siano stanchi morti di questi cretini. Beh, insomma, credo che da americano certe cose colpiscano anche in maniera particolare, perché è ancora più scioccante vedere una cosa del genere. Non lo so, io ci sono rimasta molto molto male. Ma sì, perché in Italia poi in particolare accadono queste cose, perché poi dall'altra parte, in altre parti del mondo, non lo so, Piero, tu che cosa ne pensi? Perché continuamente tornano cose di questo tipo? Io oggi voglio fare un po' il buonista, però queste cose basta. Basta proprio vederle, ma basta. Sono d'accordo. Tra l'altro, proprio sul Foglio qualche giorno fa, Alessandro Giuli, che è tifoso romanista, che conosce bene la curva della Roma, e dire tifoso è poco. Esatto, ha scritto una cosa sacrosanta, cioè ha detto: la vecchia guardia uno striscione del genere non l'avrebbe mai fatto. Io voglio dire, non faccio il politicamente corretto e dico che secondo me lo sfottò anche pesante allo stadio ci sta, ma sì, arrivare a insultare la madre di un ragazzo morto in circostanze del genere non ha più senso, non ha senso. Io dico anche il discorso dei pochi fottuti idioti che rovinano lo spettacolo a tutti gli altri è vero, ma ormai lo sentiamo ripetere da troppo tempo. Secondo me è assurdo che si possano portare dentro lo stadio degli striscioni del genere. Voglio dire, se uno va all'Angelus del Papa in Piazza San Pietro, gli tirano fuori dalle tasche qualsiasi cosa, figurarsi striscioni. Perché uno entrando allo stadio non può far controllare veramente quello che i tifosi portano al loro interno. E poi anche tante polemiche sui social network, anche certo, per questa reazione per di Pallotta arrivata certo, troppo tardi, insomma, ci si arrotola su tutto. Invece vorrei farvi parlare di un altro allenatore. Sai che lo chiamano così, tu che sai le lingue? Sì, però devo dire che in questo caso sembra un protagonista di un film americano, sì, certo, di quelli da ogni maledetta domenica, bellissimo, una cosa Al del Pacino. Genere. Sì, sì, così. Cos'è successo? Marcelo Bielsa, Marsiglia sconfitta, sconfitto contro il Paris Saint-Germain. Lui è un allenatore cileno. Sì, invece di andare a dire come De Laurentiis vi chiudo tutti in ritiro per due mesi, esatto, come Mancini alle 8 del mattino, Pasquetta ha fatto questo speech motivazionale. Sì. E in rete circola con una musica epica sotto. A me è piaciuto molto. Sentiamo. Eccolo qua. È difficile accettare le ingiustizie, ragazzi. Ma ascoltate quello che vi dico. Se giocate come avete giocato oggi, da qui alla fine del campionato, otterrete quello che meritate. Van a tener il premio che merecen. Io ora già so che nada lo serena. So che adesso niente vi tranquillizza, perché vi siete ammazzati per questa partita e non avete ottenuto quello che meritavate. Accettate la ingiustizia. Accettate l'ingiustizia, che tutto si equilibra alla fine. Mancano 9 giornate. Sono 9. Se giochiamo così le prossime 9 partite, non preoccupatevi che avrete la ricompensa che meritate. Anche se vi sembra impossibile, non reclamate nulla. Ingoiate il rospo. Dovete essere forti. Mi complimento con voi, tutti. Lo felicito, muchacho, a todos. Beh, fantastico, tutto si equilibrerà, ci sono ancora 9 giornate da giocare e otterrete quello che meritate. Beh, che bello, un'iniezione di fiducia, ci vorrebbe in tutti i mestieri, mica solo l'allenatore di calcio. Ma il Toro c'ha un Ventura che non è molto diverso, Piero. No, è vero, insomma, c'è una comunicazione diversa evidentemente, credo ci sia una grande operazione di comunicazione nel fatto che questo video sia finito sui social network, per caricare alla grande i tifosi e per, insomma, da uno sente un discorso del genere e gli viene subito a tifare per l'Olympique Marsiglia. Sì, è vero. Di Ventura non ci sono video. Secondo me, a me la prima figura che è venuta in mente vedendo questo video è stato l'allenatore leggendario del Liverpool, Bill Shankly, di cui in un libro che è uscito da poco, si chiama Red or Dead, riportano anche in modo forse fantasioso i discorsi che lui faceva nel spogliatoio. C'è una letteratura fantastica, secondo me, su quello che un allenatore dice ai propri ragazzi negli spogliatoi. Raramente si sa veramente quello che succede, vedere un video del genere è fantastico, rompe probabilmente un muro che secondo i puristi non dovrebbe essere rotto, però ecco, però bello, sembra di essere seduti lì sulle panchine insieme ai giocatori, come dice Marta, anche in altri posti di lavoro sarebbe bello dappertutto, un motivatore così, sì, che... Ma non abbiamo detto niente o quasi niente dell'Inter. C'è qualcosa da dire? Qua a aspettare Moratti. Perché? E invece no, ma lui ha detto che no. Allora, Moratti ha detto no e lo ha detto così. No, mi può mancare l'Inter, ma mi manca come tifoso, nel senso che vorrei avere magari più soddisfazioni, ma anche Tovir vorrebbe averle. Tutto quello che ho letto stamattina non è vero, insomma. Quindi nessuna possibilità di rivedere. No, arrivederci. No, arrivederci, Daniele, arrivederci. Dobbiamo commentare? No, non dobbiamo commentare. Piero, commentiamo? Se Mancini... Piero, commenta tu, non lo so, la crisi dell'Inter, guarda, capito. Sono contro le operazioni, pur essendo tifoso del Torino, sono contro le operazioni di nostalgia. Ecco. Anzi, se posso dire, sono convinto che l'Inter, per tornare a essere una grande squadra, dovrebbe liberarsi di tutto il morattismo, di tutto quello che si trascina dietro. Quindi anche Mancini? Beh, Mancini, ma non lo so. Guarda, ecco, su Mancini non so dirti. Certamente sta facendo peggio di Mazzarri, però forse facendolo lavorare. Bisognerebbe vederlo l'anno prossimo, con un mercato che fa lui e in cui gli comprano qualcuno. Ma che, secondo me lo vedremo l'anno prossimo. Comunque, secondo me anche. Abbiamo scatenato l'interista. Dai, sei contento di aver parlato un po' di calcio? Ma sono molto contento. Poi sono dei personaggi tutti belli, letterari, ampi, densi. Bello, mi piace perché d'altronde noi che parliamo sempre di rete, il calcio è una va grande fortissimo, parte della rete. Sì, va fortissimo in abbiamo rete, una come pausa, si è visto. Dobbiamo salutare il nostro ciao, ospite. Piero. Grazie a Piero Vietti per essere stato con noi, ti seguiamo, @ Piero Vietti su Twitter. A presto, ciao Piero. Ciao. YouTube. Rieccoci insieme, Daniele, dopo una pausa, dopo 2 ore e mezza. Sì, tu sei stanca, no, io sono rilassato. No, però Radio Tube mi rimette, sì, questo è piacevole. Mi rinvigorisce. Sono contento per questo. Poi adesso parliamo di una cosa bellissima. Oh. Io qualche giorno fa, sai perché mi è venuto? Perché, diciamo perché la verità, ogni tanto Daniele. Mi vengono persino delle idee. Sì, no, non è vero. Delle idee. Perché qualche giorno fa ho visto un documentario molto bello su Alberto Burri e Piero Della Francesca. Ah, vedi? E quindi quando l'ho visto ho detto, ma insomma, a volte vedere un documentario, peraltro sta tornando, tu che ti occupi di cinema, ne abbiamo già parlato, sta tornando. Il documentario. Quindi ho detto, parliamo di arte in televisione. Perché si dice sempre, perché in televisione non c'è spazio per la cultura, i programmi di cultura vanno sempre in onda invece, di notte, e però, allora, attenzione, forse nelle generaliste, ecco, non se ne parla tantissimo, però ci sono un sacco di reti, sia sul digitale terrestre che sul satellite, che si occupano di arte a tempo pieno. Sì. Ce n'è una alla quale io sono particolarmente affezionata. C'è conflitto? No, parentela? No, amicizia? C'è affinità. Affinità. C'è baruffa nell'aria. E quindi? E quindi ascoltiamoci quest'audio. Francesco Vezzoli nasce nel 1971 a Brescia. I suoi lavori sono incentrati su una figurazione pop, citazionista, kitsch e raffinata, mettendo a nudo i meccanismi con cui l'industria dello spettacolo condiziona le nostre esistenze e i nostri sogni. Molte sue opere sono realizzate con la tecnica del ricamo. An Embroidered Trilogy è composto da 3 episodi. Ognuno dei quali prevede la presenza di una famosa attrice, un famoso regista e dell'artista. In ogni episodio l'attrice protagonista mette in scena la parodia del personaggio cinematografico oppure televisivo che l'ha resa famosa. Ogni regista filma il video come fosse un occhio esterno, come fosse il terzo occhio dell'artista. Artista che in ogni video rimane in disparte, intento a ricamare. E questo è I'm Art, un progetto in 14 puntate firmato da Sky Art HD insieme a Mi Arte Vulcan, che traccia in pillole alcune linee della storia della videoarte italiana. Lo abbiamo detto, Sky Art HD, e io devo confessare il mio amore per questo canale. Abbiamo al telefono il direttore Roberto Pisoni. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Roberto, lo voglio dire subito, voi siete media partner del MiArt, che è in questi giorni a Milano, la Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, appunto, della Fiera di Milano. Avete inventato questo format che appunto parla della videoarte italiana. La videoarte è una però delle forme di cui voi vi occupate a Sky Art. Come si fa a parlare di arte in tutte le sue diverse forme in TV? Cioè, state dimostrando voi, e lo dicevo anche altri canali, che è assolutamente possibile. Sì, è possibile, credo che sia l'unico modo possibile. Quello che cerchiamo di fare con la nostra programmazione molto trasversale, molto libera da questo punto di vista, una programmazione che mescola l'alto e il basso, i generi, dal rock al fumetto fino all'arte più classica, è il desiderio di inseguire le micro comunità di appassionati di ciascuna di queste discipline, che magari possono allargare i loro interessi, visto che evidentemente una delle loro caratteristiche principali è la curiosità, ad altri ambiti. E questo percorso, devo dire, in questi 2 anni e mezzo è stato molto ragione. Il progetto I'm Art invece è un progetto sperimentale che nasce proprio dalla collaborazione con MiArt, della Vulcan, da un'idea di Vincenzo De Bellis, che è il direttore di MiArt, e di Alessandro Roia, che è un attore sopraffino, ma in questo caso ha rivestito gli abiti del produttore esecutivo. Il desiderio era quello di tracciare un percorso comune tra noi e MiArt. È la prima volta che collaboriamo con una fiera in maniera così produttiva. Abbiamo voluto tracciare una sorta di storia delle videoarte in Italia, che è uno dei contenuti che comunque c'è anche in MiArt, attraverso 14 video che partono dagli anni 60 e arrivano fino ad oggi, quindi partono dall'analogico per arrivare invece alle tecnologie più evolute. Ogni pillola è introdotta da un attore, perché l'altro cortocircuito che dovevamo innestare era quello tra il cinema e la videoarte. Direttore, prima della pausa diceva Daniele che però c'è anche un legame tra arte e calcio, perché proprio l'anno scorso c'era stato un bellissimo esperimento di videoarte che era firmato da Yuri Ancarani, che era stato portato anche al Festival di Locarno e che voi avevate prodotto, che era proprio un viaggio a San Siro, era proprio un viaggio dietro le quinte del calcio. Sì, in quell'occasione il progetto di Yuri Ancarani faceva parte di un progetto che si chiama Arte Visione, che è un progetto che abbiamo presentato l'altro giorno a Milano, al Museo del Novecento, dove abbiamo aperto una mostra con i lavori dei primi 2 anni. È un progetto che abbiamo sviluppato insieme al nostro Dipartimento di Corporate Social Responsibility, che nasce dall'idea di promuovere ovviamente i giovani artisti italiani, che è un altro dei nostri obiettivi. E in quel caso specifico il lavoro di Yuri è un lavoro assolutamente straordinario. L'idea del progetto collettivo era quella di seguire la televisione dal suo backstage, in particolare San Siro, che tra l'altro verrà mostrato a Centre Pompidou, anzi è stato mostrato lo scorso marzo a Centre Pompidou e anche al MoMA. L'idea era quella di raccontare i tempi morti prima della partita di calcio. Tutto si ferma prima del grande spettacolo. Infatti io volevo mostrare degli audio alla radio, ma non è rumoroso, perché sono momenti di grande preparazione, concentrazione, ma non... di grande sospensione. Esatto, sì, sì. Esatto. Però vorrei far ascoltare un altro audio. Eccolo qua, perché infatti c'è un fan. È solo qualche secondo però. Peccato, io ce l'ho tutto però. Vorresti ascoltarlo, mostrarlo tutto alla radio? Però questo dimostra quello che diceva prima il direttore, che si può fare una trasmissione, una televisione sull'arte che si apre ai generi, perché lui, per esempio, il personaggio di cui stiamo per parlare, come lo definisci? Non lo so, è estremamente trasversale. Allora, è stato dedicato a lui un documentario poco tempo fa, appunto, da Sky Art HD, Giovanni Lindo Ferretti. Sono stato allevato cattolico e felice. Poi, con l'adolescenza, ho scoperto il mondo moderno e la vita. Poi non ne potevo più, perché avrei dovuto scegliere di comprarmi una casa a schiera, un appartamento, fare un mutuo e decidere che la vita era finita. E allora sono andato un po' in giro per l'Europa e mi sono ritrovato a Berlino. Bello, sa memoria questo. E le facce, c'è lui che fuma milioni di sigarette su una sedia in un posto stupendo in montagna dove si è ritirato e racconta anche le cose più tristi della sua vita, la sua vita. Spesso ultimamente vi siete occupati di musica e insospettabilmente anche di rock, di pop. Bowie, ce n'è stato uno su Bowie stupendo. Beh, il bel documentario, l'ultimo che ovviamente non potevamo sapere sarebbe stato l'ultimo, con Pino Daniele, l'omaggio recentemente a Kurt Cobain. Quindi arte sì, però trasversale, quindi anche il pop, anche il rock. Ma come dicevo, secondo me mescolare i generi è davvero l'unico modo virtuoso di mettere in comunicazione delle arti che comunque questi anni hanno testimoniato che i frutti più creativi e più ammirevoli nascono spesso da questo tipo di incontri, da rockstar che incontrano artisti contemporanei, da designer che magari collaborano con attori. Non tutte sono operazioni riuscite, ma sono sicuramente operazioni rischiose e soprattutto operazioni vitali. Quello che cerchiamo di fare noi è proprio questo. Quando abbiamo lanciato il canale la nostra idea è che ci fosse molta musica di sottofondo. C'è molto rock e va bene. Sicuramente c'è l'aspetto pop, però bisogna anche dire che evidentemente i telespettatori di un canale come Sky Arte sono molto esigenti, cioè la qualità infatti dei vostri dei documentari che trasmettete è veramente bella, in modo imbarazzante, sempre anche il documentario più pop nel contenuto ha sempre una qualità altissima, ma esistono produzioni capaci di arrivare a produrre appunto un intero canale per tanto tempo con qualità così alta? Diciamo che uno dei nostri obiettivi era quello di essere innovativi da un punto di vista linguistico, cioè contemporanei. Volevamo che il canale avesse uno sguardo assolutamente contemporaneo. Per fare questo collaboriamo con delle produzioni, con delle case di produzione indipendenti che sono cresciute con noi, quindi che hanno sperimentato con noi, che hanno inventato nuovi modi di riprendere le cose con tecnologia ultraleggera, quella insomma, di ultima generazione, e quindi affrontiamo ogni documentario, ogni programma che produciamo in maniera originale con questa idea in testa, raccontiamolo al modo nostro, e credo che questo sia uno delle cose rispetto alla nostra identità, uno dei tratti caratteristici della nostra identità che è passato di più. Sì, quando uno cambia fa canale, fa zapping, finisce su Sky Arte, se ne accorge subito. Sì. Proprio è una cosa evidente. È verissimo. Ma se ti chiedessero o ti proponessero prima o poi di fare il direttore di una generalista, lo faresti? Mi sto divertendo talmente tanto con Sky Arte che aspetto che mi facciano la domanda, poi ci penserò. grazie direttore, grazie Roberto grazie Pisoni per ciao, essere stato con noi, grazie, ciao, ciao, a presto. E tutti al MiArt. No? Sì, certo, abbiamo proprio qua vicino. Vicino. Così abbiamo parlato anche di arte, che lo facciamo sempre. E per oggi poco. Niente politica, niente gossip, niente fidanzate, niente di niente. Come no? No, come è finita no? La trasmissione. C'è il traffico adesso. Ah no, pensavo ancora... che fosse finita. No. Vabbè, no. C'è ancora tempo. Vediamo. YouTube. Come passa il tempo quando ore. Ci si diverte. Sono qui che conduco da tre ore. La più bella, l'ultima, quella sì, di RadioTube. Sì, lo dice tutto. Questa volta il calcio, l'arte e finalmente un parliamo po' di un amore. Po' di gossip. Perché sì, questa settimana questa settimana sì, questa si è spettegolato tanto, si è spettegolato in politica. Si è spettegolato in politica. Devo dirti che è particolarmente lanciata la Lilly. Si è lanciata la Lilly, è vero. La Lilly si è lanciata per ben due volte. Perché si avvicina l'estate, allora bisogna dare una svolta pop alla politica. Anche perché poi con Renzi, cioè la politica sembra un po' così, non è argomento poi così. Devo dirti cosa è successo, cosa è venuto alla Lilly, alla signora Gruber? Per di fare delle domande. Puntate, sì. Due puntate di 8:30, all'ultimo miglio, l'ultimo minuto, tacchete. Ha detto... Cioè, infilato la zeppa. Avrei ma lo fa spesso, domandina. Anche con la Boschi era l'ultima, il fidanzato. Sì. L'ultima, ma avrei ancora un'altra ultima domanda. Per esempio, Matteo Salvini, visto che questa settimana sono apparse le prime foto di un limoncino con la di un addirittura c'era? Sono ma io non l'ho visto, ma twittatelo, voglio. Ma ti sei perso le prime foto? No, ho letto il titolo, le prime foto di un bacio notturno. E non hai aperto il no, link. No, perché pensavo che fosse phishing, no, il titolo così, ma poi non c'è. Niente, invece ma no, poi, c'era. Boh, sono anche affari sono loro. Esatto, ma sono affari loro o essendo loro personaggi pubblici? No, sono affari loro, non dai. Lo so. Ma non lo so, e so, la Lilly l'ha chiesto a Salvini . E Salvini con una faccia che purtroppo non vi possiamo mostrare ma possiamo alla radio, mimare, ma possiamo eccola. La mimiamo alla radio. Ha reagito così, eccolo. Avrei una domanda che nulla c'entra con quello di cui stiamo discutendo questa sera, perché lei è stato Prego. Più volte paparazzato con la presentatrice Elisa Isoardi. Tra l'altro una bellissima ragazza, vediamo qui l'ultima copertina di Chi, dove ci siete voi due, dicono che vi hanno immortalati al primo bacio, eccetera, eccetera. A questo punto è la fine del giallo? No, ma mi scusi, io vorrei essere giudicato per quello che faccio politicamente sul lavoro, sull'immigrazione, sulle tasse, sull'agricoltura. la mia vita privata, come quella di qualunque altro italiano, come la sua e quella della Serracchiani, sono problemi suoi, della Serracchiani e miei, che non interessano agli italiani. Ma mi dispiace, Salvini, di cui non devo è da qualche di risposta, decennio ormai che i politici devono rendere conto anche della propria vita privata, però adesso non intendevo assolutamente no, fare... No, di quello che fanno, di quello che fanno e di come si guadagnano lo stipendio. Non delle persone che frequentano o non frequentano. Io avrei preferito invece di leggere donna, delle intercettazioni del Bunga Bunga di Berlusconi, avrei preferito le intercettazioni del Monte dei Paschi di Siena, che per gli italiani sarebbero stati molto più interessanti. E agli italiani che cosa fa o non fa Salvini della sua vita privata non gliene può fregare di meno. Vabbè, insomma, non ci vuole dire niente. Non sappiamo perché non ci sarebbe niente di male, ma insomma. Ma scusi, devo venire a dire a lei e alla gente che ci sta guardando cosa faccio io? Adesso, abbia pazienza, eh. Beh, ma non mi pare che ti sottrai alle foto, ai tweet, ai selfie. Beh, devo dire la Serracchiani che dice non ti sottrai, beh, non c'entra, le foto, i tweet e i selfie sono un'altra cosa. Non c'entra proprio niente. La vita privata c'entra nel racconto di un politico quando la vita privata c'entra con la politica. Ma se non c'entra... Però sai che ormai... Cioè, se tu sei Claire Underwood con Frank Underwood, sì, bisogna parlare anche un po' della vita privata. Ormai, ma se tu sei... Ormai si fa, ormai si fa. Poi ci sono i figli. Ci si dimentica sempre del fatto che poi ci sono persone che magari attorno soffrono di rivelazioni di questo tipo. Vabbè, sai, mica solo la Lega, però. No. Chi altro? Aspetta che leggo qua se c'è un principio di presbiopia. Se ci sono. Ah, no, pensavo che se avevi paura di quello. No, ho paura un po'. Perché la Lilly all'ultimo minuto ne ha fatta un'altra. Esatto. Allora, a chi? Con la Francesca Campana Comparini, ospite in studio di 8:30 come filosofa delle religioni. Perché ha organizza un convegno importante a Firenze. E però è anche la moglie di uno dei collaboratori più stretti di Matteo Renzi, che però è un cittadino privato senza incarichi pubblici, mi risulta, o più o meno aziendali. Ma tu vuoi che la Gruber chiedesse qualcosa di questo? E gliel'avrà chiesto, infatti, se l'ha chiesto Salvini. Sentiamola. Siamo in chiusura, io ho una domanda per la dottoressa Campana, che adesso non c'entra direttamente con il califfo, ma siccome appunto abbiamo sentito che lei si occupa di religioni, di filosofia, le piace anche la politica, visto che lei è la moglie di Marco Carrai, che è forse il più caro, il più grande amico di Renzi, che poi si ritrova ogni tanto anche sui giornali per tanti motivi diversi. Di politica parlate in famiglia? Dicevo, guardavo l'ora e dicevo, guarda un po', la Lilly non ci ha messo lo zampino, eccola che sul finale in calcio d'angolo arriva il colpo della Lilly. No, la domanda era se amo la politica. Amo la politica culturale, quello sì, per il resto ecco, noi tutte le sere Carrai guardiamo... Parla di politica? Certo, tutte le sere guardando 8:30. Ecco, vabbè, allora ne avete da discutere. È stata brava. Anche lei dice la Lilly. La Lilly, però veramente, cioè la domanda su cosa dice il marito di una signora dottoressa che è l'amico di uno che fa... Voleva semplicemente far notare al pubblico che... Allora lo dica all'inizio della trasmissione, no? Alla fine, colpo di scena, l'avrà detto, magari l'ha detto. Non credo, sai. Vabbè, era ovvio. Io infatti ero lì che aspettavo, mi sembrava strano che non, che non avesse fatto la domanda. Eri lì che twittavi. Quando? Perché poi dopo su Twitter provochi la domanda del... Perché poi il conduttore guarda l'autore e glielo dice, guarda che su Twitter dicono che tu devi dire quella cosa lì. Sì. Devo dire che effettivamente è di estrema attualità la 7, questo blocco è tutto di perché? Audio della 7. Ce n'è ancora un altro? Sì, perché torniamo a Salvini. Da un'idea anche di Stefano Accorsi, no? Ah, che bello. Bello questa ondata di tweet. Ma ormai è una valanga. Ho parlato poco di questo. Ma l'altra volta ne avevamo un po' un accennato. Po sì, perché però... ne hai parlato nel sabato del villaggio della e ne avevo serie. Parlato prima nel sabato di quel del villaggio. Capolavoro! Non gli è piaciuta. 1992 non gli è piaciuta. Per ho niente. Trovato il modo di dirlo. Non gli è piaciuta. Erano tre settimane che voleva dire che non gli è piaciuta 1992. Ma no, è fatta benissimo, ovviamente. Ma erano anni drammatici. Invece sembra una commedia sexy. idea. Lo sapevo che doveva dirlo, da un'idea di Stefano Accorsi. Sì, da un'idea di Matteo Salvini, perché ne ha combinata un'altra. Beh, ne ha combinate svariate questa settimana. Anche brutte. Anche brutte, quando è diventato particolarmente... Perché Facebook l'ha sospeso, questo è un dato di cronaca. Sì, allora, prima era successo che in rete non si parlava altro del fatto che lui avesse fatto queste dichiarazioni un po' troppo pesanti, insomma, incendiamo i campi rom, insomma, una cosa un po' pesante, un po' grave. Però non è stato mica sospeso da Facebook per quello, sai? No, per la parola che ha detto. Perché ha scritto una parola che non era giusta nella per policy. Gli standard di Facebook, e lui se ne è accorto in diretta. Era la mattina alla 7, se ne è accorto in diretta. Ecco cosa è successo a Salvini. Stavo cercando la risposta di un telespettatore che mi mandava dei documenti su Facebook inerenti alla discussione che stavamo facendo in trasmissione, però stavo leggendo durante la pubblicità e stavo cercando di capire, perché sono abbastanza ignorante in materia, che Facebook mi ha bloccato per 24 ore perché ho messo in un post la parola zingari. Vabbè, e questo deve vedersela con Facebook adesso. Quindi radere al suolo è razzista, la ruspa è razzista, non si può dire zingari. Quindi hanno bloccato Facebook. Anche voi se dite zingari, hanno bloccato Facebook, sì. È politicamente scorretto dire zingare? Mia nonna mi ha educato in maniera politicamente scorretta, perché parlava di zingare quando c'era due anni. Voglio dire, un'antica canzone. E cancelliamo buona parte anche della cultura musicale italiana. Cioè, capito, cancelliamo buona parte della cultura musicale. Sì, no, perché lì c'è il problema delle policy, dei social network, che sono pensate con la lingua inglese, poi le traduzioni, poi appunto magari la frase che è più grave non passa. Sì, è appunto, un mondo alla da regolare. Sembra che sai che anche la polemica questa settimana per la foto di quella fotografa francese che in un esperimento molto particolare aveva postato su Instagram una sua foto in uno di quei giorni del mese, diciamo così, e quella foto è stata censurata, mentre dice se invece una ragazzina americana e ha postato una foto si mostra quasi in topless coprendosi con due pistole non succede niente. E lo so, è un mondo da regolare, tutti mondi nuovi. Ebbene, si devono regolare. Sì. Quando si autoregolano è meglio. Per esempio Periscope non permette di trasmettere immagini di carattere, diciamo, erotico, pornografico. Come fa? Sai che è questa cosa che mi voglio un po' capire. Vabbè, adesso devo studiarmi ancora un po' Periscope. Ma ne parliamo la prossima volta. Sì, perché adesso... sai che noi abbiamo un limite solo? Quale? Temporale? È temporale, sì, perché dobbiamo dare la linea al GR delle 18. Bellissimo. Quindi ci salutiamo per questa settimana. Sì. Ci diamo appuntamento al prossimo RadioTube, sabato prossimo alle 17, ma io vengo prima, ti scaldo la sedia, arrivo alle 15 col sabato del villaggio. Tutto va bene? Lo studio è molto caldo, infatti, quando sì, arrivo. Sì, infatti c'è una temperatura. Non riesco a regolare l'aria condizionata. Vabbè, abbiamo finito. Ringraziamo Paolo Corleone in regia, lo studio bollente rimarrà per Franco D'Assisti, ci penserà lui. Noi ce ne andiamo con questo caldo. Ciao, a sabato prossimo.